Dal prossimo 14 luglio finirà il supporto per Windows Server 2003. Sei pronto ad aggiornare la tua infrastruttura IT? Passa ora al cloud con Aruba. Vai su cloud.it e prova gratis i nostri servizi con la tecnologia Microsoft Hyper-V. Con Aruba passare al cloud è facile, rapido e conviene. Vai ora su cloud.it. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Per due temi economici, Jeb Bush si candida e promette che l'economia americana crescerà con lui del 4%. Si candida ovviamente per la nomination repubblicana. Si cerca anche in congresso di restituire vita a quell'accordo commerciale nell'area del Pacifico che era stato bocciato la settimana scorsa. Due temi economici, ne parlerò più approfonditamente domani. Oggi voglio invece affrontare una cosa che in America si può fare e in Italia no. Volevo regalare delle azioni su un piano simbolico a un ragazzino, infatti a mio nipote, che si preparava un importante suo momento, senza entrare nel dettaglio, di 13 anni, 14 anni, e regalargli appunto delle azioni simboliche. Volevo regalargli delle generali, perché suo trisnonno era stato agente delle generali per la Libia, quindi c'era una componente storica, sentimentale e così via. Ero entusiasta di questa idea. E poi mi sono fermato perché ho parlato con un agente italiano che mi ha detto no, questa è una cosa impossibile, perché il minore non può avere delle azioni. Ci vuole un giudice tutelare, ma il giudice tutelare deve essere nominato, ci vogliono a volte dei mesi, è una procedura complessa. I genitori non possono aprire un conto a suo nome, o meglio possono, ma poi non possono avere le azioni. Se le azioni le tengono loro, devono poi fare un atto di donazione attraverso un notaio, il notaio costa, una cosa complicatissima. Oppure devono vendere queste azioni, pagare le tasse sulle azioni e poi restituire i proventi, che a quel punto non è più quella cosa romantica che doveva essere il possesso di queste azioni. Però c'è un elemento in più, non è soltanto il fatto che uno non riesca a fare quello che vuol fare, è che mi sono accorto che questo diventa uno degli elementi che non aiuta il nostro paese nella formazione di una cultura finanziaria, perché i giovani si devono avvicinare alla finanza, possono capire come funziona una borsa, invece evidentemente c'è un retaggio anche culturale che impedisce che questo accada. Allora, di questo vorrei parlare con un esperto in materia, ovviamente, perché io non lo sono. Con me ai microfoni di America 24 il professor Mario Stella Richter, professore di diritto commerciale all'Università di Tor Vergata a Roma. Buongiorno professore. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Eccoci. Allora, intanto, io questa cosa l'ho scoperta da pochissimo, lei probabilmente la conosceva, ma è giusto o sbagliato? Cioè, lei condivide quello che la mia premessa, cioè il fatto di dire che qui c'è un problema culturale al di là del problema tecnico? Ma direi che tutto quello che ha detto è giusto sia dal punto di vista della ricostruzione, seppure rapida, dell'attuale assetto e quindi delle varie difficoltà che dal punto di vista delle forme, dei costi, delle tutele in qualche modo che l'ordinamento pone e rende difficile questa operazione, ma è anche giustissima la sensazione, la stessa che ho io quando mi ha raccontato la vicenda, cioè che in fondo questo sistema di tutele finisca per impedire la crescita culturale dal punto di vista delle esperienze dirette anche finanziarie di chi forse proprio in ragione della giovane età è più adatto a recepirle anche sperimentandole, vedendo l'andamento dei titoli che gli vengono intestati, che gli vengono regalati, come nel suo caso. Ecco. Quindi direi che è tutto giusto quello che ha detto, mi trovo concorde. Bene, allora facciamo partire una crociata, cominciamo io e lei e poi vediamo dove arrivare. Però intanto vorrei capire l'origine di questo, perché qualcuno mi ha detto: ma sai Mario, noi tuteliamo il diritto dei minori, questo risale al diritto romano. Dico: ma ho capito, però il diritto romano, ai tempi dei romani le azioni non esistevano, quindi forse è meglio evolversi. Qual è secondo lei la radice di questa differenza fra il nostro ordinamento e per esempio quello americano? Guardi, se dovessi darle una risposta così su due piedi, quella che mi chiede, direi che è una radice essenzialmente culturale. Cioè il nostro ordinamento è un ordinamento che rispecchia una visione della società ancora, sotto molti aspetti, legata al fatto che la ricchezza è una ricchezza essenzialmente immobiliare, i trasferimenti di ricchezza rispondono alle logiche dei beni immobili, delle terre, dei terreni, degli appartamenti oggi nella società urbanizzata. Beh, quindi è una cultura ottocentesca, cioè parliamo di insomma, ormai è di parecchio tempo. È una cultura che è un ordinamento, direi, sono regole che esprimono una cultura in cui il grosso della ricchezza era effettivamente negli immobili, in cui non c'era un mercato finanziario, non c'erano dei mercati finanziari così sviluppati anche in termini di numeri e di integrazioni. Non era pensabile per una famiglia, ecco, al di là delle generali, che forse abbiamo avuto tutti un nonno che ce l'ha trasmessa in eredità, però al di là delle generali non era pensabile comprare un ETF o una cosa su un mercato, un titolo o un derivato su un mercato, non lo so, magari emergente dell'Estremo Oriente. Non era così che la gran parte anche della borghesia benestante investiva i propri risparmi. Oggi obiettivamente è cambiato, i mercati finanziari hanno iniziato a evolversi più negli Stati Uniti e quindi lì sono, da questo punto di vista, diverse le regole. Ecco, ma allora veniamo al punto: come possiamo farla partire questa crociata? Cioè, secondo lei c'è la possibilità di cambiare qualche cosa? Possiamo con Radio 24, con questo programma, aprire un dibattito? Come si può fare tecnicamente? Una nuova proposta di legge? Scriviamo una lettera al primo ministro Renzi dicendogli attenzione, perché qui il problema non è solo le riforme ma è la cultura? Io, guardi, adesso francamente il metodo tecnico non lo so, non mi trovo sufficientemente preparato per fare una proposta. L'ordinamento è un sistema complesso e probabilmente prima di incidervi bisogna pensarci più di quanto sia riuscito a fare io stamane. Però quello che sicuramente si può dire, e lei già di fatto l'ha detto e la crociata già di fatto l'ha fatta partire con questa sua riflessione, e che nel momento in cui si insiste, come si va insistendo da anni, sulla necessità che la cultura finanziaria di tutti noi e quindi anche delle nuove generazioni venga incrementata con la scuola, con l'interazione tra istituzioni finanziarie e scuole, con l'educazione anche dei giovani, beh, probabilmente sarebbe contraddittorio privarli di fatto della possibilità, seppure in vitro, quindi, come dice lei, magari entro limiti molto ristretti, della possibilità di sperimentare ad essere azionisti, per esempio, di una società quotata italiana di grande tradizione e di una certa solidità. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di azioni, di finanza, per qualcuno il diavolo. Beh, io non credo che questo lo sia, possono esserci dei problemi, ma divertiamoci con una canzone che celebra così la finanza, il denaro. Money, money, money di Liza Minnelli. Un classico. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go round, of that we know for sure. Keep on being poor. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. Shoes on your feet, your coat's thin as paper, and your mouth 30 pounds on the way.